L'obiettivo è quello di costruire un progetto di ricerca paneuropeo con il fine di ripensare le tecnologie che si utilizzano per la ricerca delle informazioni. Ovviamente l'idea non è quella di costruire motori di ricerca come li conosciamo oggi, ma di allargare le capacità di questa tecnologia al trattamento di una classe molto più ampia di dati. In particolare l'acronimo comprende la parola audiovisual, che è il tema centrale del consorzio e del progetto, cioè l'estensione della ricerca a contenuti digitali di qualsiasi natura, audio, video e ovviamente documenti testuali. Quindi voi dite oggi i motori di ricerca prevalentemente cercano testo, questo è l'obiettivo dei motori di oggi, noi dobbiamo cercare di fare qualche cosa che va oltre. La società del futuro sarà sempre più basata su una enorme disponibilità di contenuti mediali. Si pensi al cosiddetto web 2.0 e al contenuto generato dagli utenti. Ognuno di noi ha in tasca una telecamera e produce contenuti a ritmi impressionanti. La sfida è come organizzare questa mole immensa di informazione affinché sia utilizzabile con la medesima efficacia con cui oggi Google, Yahoo e tecnologie similari ci consentono di svolgere ricerca all'interno di vaste collezioni documentali. Però il problema tecnologicamente è estremamente più complesso che la ricerca documentale. Nel caso di un motore di ricerca odierno, sostanzialmente semplificando un po', ma quello che la tecnologia fa è scaricare da internet i documenti, indicizzarli opportunamente, estraendo le parole rilevanti e confrontarle con le parole che noi usiamo nella nostra interrogazione. Lei prova a immaginare la stessa operazione invece effettuata su file audio, file video che sono opachi, nel senso che la conoscenza deve essere estratta da questi formati affinché diventi ricercabile. Quindi abbiamo davanti una sfida effettivamente molto interessante.